Visto che lei è da poco tornato dagli Stati Uniti, ne approfitto per chiederle qual è lo scenario, qual è stato lo scenario della DARPA e magari ci ricordi anche qual era l'obiettivo di questa gara. Sì, l'obiettivo della gara era di cercare di capire se veicoli intelligenti si possono muovere autonomamente in uno scenario urbano. E quindi hanno, diciamo, cercato di strutturare un'intera città e hanno fatto muovere questi veicoli all'interno della città insieme ad altri veicoli guidati invece da persone umane. Quindi c'erano 50 veicoli guidati da, diciamo pure stuntmen, da persone che hanno sfidato il pericolo, e insieme ai veicoli autonomi, e i veicoli autonomi avevano una missione da compiere. Partendo da un punto, dovevano toccare altri checkpoint, cioè toccare degli altri punti nella città, fino ad arrivare al traguardo. In tutto c'erano tre missioni, e ognuna era diversa dalle altre, e soprattutto ogni missione di ogni veicolo era diversa da tutte le altre degli altri veicoli. Quindi in sostanza tutti i veicoli sono partiti più o meno allo stesso momento, uno dopo l'altro, a distanza di qualche minuto, e poi ognuno di questi doveva andare in questa città, nella stessa città, e toccare dei punti, parcheggiarsi, uscire dal parcheggio e chiaramente se incontrava altri veicoli doveva dare la precedenza se avevano la precedenza, prendersela se aveva la precedenza, insomma muoversi e navigare insieme a tutto il traffico rispettando le regole della strada. Quando parliamo di veicoli intelligenti, parliamo di veicoli completamente autonomi o in qualche modo controllati da lontano, dall'uomo? No, qui è tutto autonomo, quindi il veicolo parte da solo, sceglie la strada da solo, perché siamo in una città, quindi ci possono essere anche strade diverse per raggiungere l'obiettivo. Quindi sceglie la strada da solo, sceglie la velocità da solo, deve appunto, dicevo prima, interagire con tutti gli altri veicoli fino ad arrivare al traguardo in modo totalmente automatico, quindi non c'è nessun intervento. Ad oggi che cosa possiamo dire sulla capacità della tecnologia, degli uomini che, come lei, lavorano in questo settore nel riuscire a far sì che appunto un veicolo con quattro ruote, che in alcuni casi è simile a un'automobile, a un SUV, a un piccolo camion o a un grande camion, riesca a muoversi autonomamente? Quali risultati sono stati ottenuti? Sono stati ottenuti e sono molto positivi. Devo dire, appunto, magari fare un commento su quello che è successo anche un paio d'anni fa, c'è stata un'altra gran challenge in una situazione un po' diversa e volevo fare un parallelo, visto quello che abbiamo visto poco fa. 2 anni fa c'è stata una gara totalmente nel deserto, quindi veicoli automatici dovevano muoversi in una situazione completamente ignota e percorrere anche strade ignote, ma anche abbastanza complesse da localizzare e da gestire, perché erano situazioni estreme, quindi strade sterrate, passi di montagna, evitare ostacoli in queste situazioni abbastanza complesse. Invece quest'anno è stata completamente diversa perché era in uno scenario urbano, quindi un po' più strutturato. Diciamo che l'interesse delle case automobilistiche è sicuramente maggiore quest'anno perché ci potrebbe essere un ritorno sicuramente prima, e le case automobilistiche appunto hanno interesse nel sviluppare sistemi di guida non tanto automatica quanto supervisionata, cioè un sistema di guida che dà una mano al guidatore. Se il guidatore ha un colpo di sonno, se il guidatore approccia una curva troppo velocemente, questo il sistema di bordo se ne accorge e magari frena la vettura, aiuta nella sterzata, insomma dà una mano al guidatore, sistemi supervisionati. Con i risultati di questa gara, penso che le case automobilistiche che hanno partecipato in un numero molto maggiore di 2 anni fa siano molto soddisfatte, perché appunto tutti i progetti che dovrebbero avere un seguito nel futuro sono basati sulla sensorialità dell'ambiente urbano.